caro costume da ligero lume, che a forza di pene si faccia adorar, si faccia adorar, che a forza di pene si faccia adorar. Eppur nell'ardore il Dio traditore un vago sembiante mi fe idolatrare. Un vago sembiante mi fe idolatrare. Che fiero costume da ligero lume, che a forza di pene si faccia adorar, si faccia adorar, che a forza di pene si faccia adorar. Che crudo destino che un cieco bambino con bocca di latte si faccia stimar, si faccia stimar, con bocca di latte si faccia stimar. Ma questo tiranno con barbaro inganno entrando per gli occhi mi fe sospirare, entrando per gli occhi mi fe sospirar. Che crudo destino che un cieco bambino con bocca di latte si faccia stimar, si faccia stimar, con bocca di latte si faccia stimar.